così ha detto Marrazzo, e tutti guardano già l'Italia dei Valori, perché è andato alla festa dell'Italia dei Valori. Tra l'altro, battutina veramente puntuta di Storace, che ieri durante il dibattito prima ha detto vabbè, adesso non infieriamo più, parliamo qui di politica. Poi, siccome il dibattito vedeva due molto che andavano molto d'accordo a braccetto, Storace ha detto beh, adesso però non vorrei che domani i giornali titolino bacini tra Storace e Marrazzo, con Marrazzo che dice no, ecco, non è proprio il caso di questo titolo. Vabbè, comunque, verrà preso nell'Italia dei Valori Marrazzo, chi lo sa. Intanto l'Italia dei Valori è ora sotto diciamo un attacco mediatico, perché per la candidatura di quella che è già stata definita dopo il Trota la carpa o il cefalo, vale a dire il figlio di Antonio Di Pietro, candidato in Molise alle regionali. A pagina 15 del Corriere: aiuti da papà, forse 6 anni fa la prima volta, da allora non più. Intervistato da Alessandra Rachi, si difende così il figlio di Antonio Di Pietro, che dice: non sono un cefalo e neanche una carpa. 24 mattino. Eccoci allora, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 e come annunciava poco fa la nostra Marta Cagnola, visto che riprende la stagione di Porta a Porta, eccoci qua, siamo con Bruno Vespa, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, prima puntata sulla stretta attualità, le intercettazioni, però qualcuno ha fatto notare non c'è il presidente Berlusconi, come era tradizione da quanti anni, no? Un paio di stagioni? Beh, no, non è che sia sempre venuto. Noi tradizionalmente, fin dall'inizio, dal 1996, abbiamo sempre invitato il Presidente del Consiglio in carica. Qualche volta è venuto, qualche volta non è venuto. Insomma, questo è successo con, per esempio, D'Alema venne quando era Presidente del Consiglio, Lamberto Dini è venuto una volta Romano Prodi, che peraltro fu il primo ospite, anche se non era Presidente del Consiglio, nel gennaio del 96, ed è venuto qualche volta Berlusconi all'arco degli anni, ecco, ma non sempre. Però stavolta non l'abbiamo invitato perché, voglio dire, la situazione è un po'. appunto, sì, non l'abbiamo ancora invitato perché insomma, non ci sono le bocce ferme. Un po' in evoluzione, soprattutto in questo momento. Beh, forse sì. Soprattutto in questi giorni, insomma, negli ultimi 2 o 3 giorni. In queste ore. Cambia ogni 5 minuti. Senta, la domanda che molti ci pongono, anche molti ascoltatori ci dicono: ma questi talk show con i politici che dicono da una parte e dall'altra sempre le solite cose, qualcuno può dire, hanno stancato oppure no? Oppure come rinvigorire? Qualche volta sì, non c'è dubbio. Infatti, fare la politica allora è impopolare, ma non da oggi. La politica nella quale, la trasmissione politica dalla quale non vengano fuori notizie, ma vengano soltanto fuori ho ragione io, e questo sì, insomma, voglio dire, la gente deve andare a dormire, secondo me, avendo anche degli elementi di valutazione che magari prima non aveva, su quali prima non aveva riflettuto, insomma, a questo servono i dati, servono i servizi, cioè, e poi i politici vengono giudicati per la coerenza con la quale si confrontano su questi temi, insomma, no? Oggi, voglio dire, il declassamento dell'Italia, immagino che per Maurizio Lupi sarà un frutto della situazione internazionale, per Rosi Bindi sarà colpa di Berlusconi, cioè voglio dire, no? Lupi, questo è lo schema che vedremo, no, giusto un'anticipazione questa sera per gli ascoltatori. Però poi bisogna vedere poi nel merito come si sviluppa, questa è la prima battuta, dopo… Ecco, a Porta a Porta… Il taglio dei testimoni al processo Mills… È una corsa verso una condanna annunciata, è una carognata, oppure hanno fatto bene i giudici perché sono scocciati, insomma. Sentiremo anche le intercettazioni, come ci si comporta in Rai, per esempio, come... Ma insomma, su questo la commissione di vigilanza, l'azienda, avevano dato sempre delle disposizioni, per esempio sul fatto che non si potessero doppiare, che non si potessero usare gli attori, quindi insomma vorremmo, certo, delle intercettazioni parleremo evidentemente, ma insomma non credo che stasera faremo la voce di Berlusconi e la voce di Tarantino, insomma, questo anzi direi che è formalmente vietato da disposizioni degli anni precedenti, guardavano anche le emissioni di cronaca. Sì. Senta Vespa, in questi giorni ovviamente si parla molto della Rai, ci sono state molte polemiche, riparte una stagione, non c'è Santoro, non c'è la Dandini, Saviano non c'è più, Fazio forse andrà, cioè qualcuno si chiede cosa sta succedendo in Rai, tutto normale secondo la vicenda Santoro, per esempio, a lei dispiace che non ci sia più? Dunque, allora, io ricordo sempre a me stesso, perché gli altri non quando chiuse Lotta Continua, il quotidiano storico tanti anni fa, io mandai a De Aglio proprio un messaggio di solidarietà, di dispiacere, e quando il Manifesto stava per chiudere io andai nella sede del Manifesto per portare la mia solidarietà. Cioè ogni voce che scompare è una perdita. Però, visto che chiamo alla RAI e visto che c'è un servizio pubblico, buono o cattivo che sia, bisogna pure rispettare tutti quanti le stesse regole. Mm. E Michele Santoro, che io ho sempre, con il quale peraltro ho un rapporto personale corretto, qualche volta perfino cordiale, ho sempre rispettato molto professionalmente, queste regole non le rispettava. Mm. E cioè faceva un programma che, quando io chiesi alla stampa estera, quando Berlusconi fece quella sciagurata iniziativa di proibire i talk show alle elezioni dell'altro anno, io dissi: scusate ai corrispondenti esteri, in quale dei vostri paesi nel servizio pubblico c'è un programma come Anno Zero? Ci fu il silenzio assoluto. Quindi non rispettava le regole, Santoro? Beh no, direi proprio di no. Insomma, quindi voglio dire, Santoro, che io, al quale veramente e sinceramente faccio gli auguri per un programma che sicuramente avrà successo, qualunque sia la piattaforma, Sky, quello, non faceva un programma giusto per la RAI, e poi diciamo che se n'è andato, l'ho accompagnato alla posta. Invece la Dandini, dice, la questione delle risorse interne fa un po' sorridere, okay. Non fa un po' sorridere, perché è stato all'interno e invece parla con me, no? No, ho capito, ma è stato sostituito, pare, con Pippo Baudo. Cioè, no, che lasciamo non è... perdere comunque è stato sostituito, questo non lo so. Diciamo, la Dandini, domanda: perché Vespa da 16 anni può onorevolmente fare il suo programma con risorse interne, che costa molto meno di Parla con me e fa molto più ascolto e molta più pubblicità? Può rispondere? E quindi voglio dire, non è una questione politica, è una questione meramente di calcolo economico, secondo lei, che ha fatto il Cine. Se avesse accettato di farlo all'interno, l'avrebbe fatto. Non con una produzione esterna. In questo caso, Ma poi soprattutto i costi, E Parla con me costa un sacco di soldi, voglio dire. E fa degli ascolti molto più bassi di Porta a Porta. E poi dobbiamo prescindere, vorrei vedere se fosse stato il contrario a quale albero mi avrebbero impiccato. Senta, lei ha detto ieri in una conferenza stampa: non farà digressioni. Per esempio, Sanremo fu un'esperienza, le chiesero di fare Sanremo, lei disse di no, e ribadisce: no, Sanremo no, neanche quest'anno. Risposi a Masi, al direttore generale, che faccio un altro mestiere, E perché neanche quella digressione, non so se ce lo vuole dire, cosa successe a proposito con Pippo Baudo, no? Ci fu in quel programma sui 150 anni, una tensione. Abbiamo due idee diverse di programma, e purtroppo io almeno me ne sono accorto tardi, ecco. Quando ormai non poteva più... No, è stato un errore professionale da parte mia, ormai è andata. Un'ultima battuta su questo: due giorni fa avevamo Lucia Annunziata proprio all'indomani della vicenda Dandini, e qui ha commentato, dice: viene da pensare se sia necessario ormai rimanere in Rai. Anche le intercettazioni sulla questione Sanremo, le promesse dell'Arcuri eccetera, dice, ma sembra che la Rai sia diventata ormai mercimonio politico di qualunque cosa. Lei percepisce qualcosa del genere oppure è un'esagerazione? La Rai dai tempi della EIAR, quando è politica, sì, è stata, evidentemente, essendo l'azionista, il politico, il mondo politico, evidentemente è stata sempre soggetta a pressioni. Poi bisogna andare a vedere quali sono le aspirazioni e quali sono poi le realtà. Cioè, voglio dire, che a qualcuno facesse piacere che Emanuele Arcuri partecipasse al Festival di Sanremo, questo credo che siano i fatti. Ma quello che conta è che Emanuele Arcuri non abbia presentato il Festival di Sanremo. Io credo che continuino i risultati più che le aspirazioni, non trovo. Su questo, allora, intanto le faccio in bocca al lupo per la nuova edizione di Porta a Porta. Buon lavoro, saranno anche, credo, delle prime serate, no? A novembre. Su questo però non... da novembre, se Dio vuole, a meno che non succeda qualche cataclisma prima. No, che deve succedere? Niente. No, non lo so. In genere, purtroppo, le prime serate, come diceva il povero Aldo Moro, il bene non fa notizia. Quindi, in genere, le emergenze non sono mai positive, insomma. Intanto, in bocca al lupo, con Porta a Porta che riparte questa sera ufficialmente con Bruno Vespa. Grazie per essere stato con noi e buona giornata. Andiamo alla pubblicità e al meteo, e poi parliamo di un tema che sui giornali, tema di cronaca, che sui giornali ha aperto un dibattito in questi giorni, vale a dire l'ennesimo caso in questi giorni di una cosiddetta, vengono definite così un po' volgarmente, mamme nonne, cioè di donne che partoriscono, hanno figlie a un'età biologicamente non proprio naturalissima quando uno pensa all'idea di una mamma. L'ultimo caso di una mamma di 57 anni, questo apre il dibattito, è un desiderio giusto, legittimo, di mamme che ricorrono a tecniche per soddisfare un loro desiderio, per avere un bimbo, oppure diventa un desiderio distorto, sbagliato, al quale bisogna porre anche un limite, perché alle regioni stanno pensando anche questo. 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti, vogliamo parlare di questo caso di cronaca, casi di cronaca sui giornali. Ieri la notizia: due gemelle a 57 anni. Oggi Avvenire titola: un altro parto shock. Cioè di una mamma che a 57 anni ha partorito due gemelle. Due giorni fa c'era la vicenda del tribunale di Torino, che ha dichiarato l'adottabilità della figlia di una coppia che aveva dimostrato lacune nel crescere una bimba, e anche in quel caso però aveva fatto specie l'età della madre, 57 anni. Insomma, c'è chi dice che è il desiderio legittimo di maternità che ci può essere, c'è chi dice che è un desiderio distorto, tanto che le regioni starebbero pensando, questa notizia data da Repubblica, lo Stato starebbe pensando di imporre un limite a livello regionale, mamme entro i 43 anni, cioè un limite per accedere poi alla fecondazione assistita. Che ne pensate? 800 24 00 24. Intanto ne vogliamo parlare con la signora Rosanna della Corte, che saluto. Buongiorno signora Rosanna. Buongiorno. Signora Rosanna detiene, non so se a piacere o no, questo record in Italia di essere la mamma che nel 93 a 63 anni ha dato alla luce chi? Suo figlio si chiama? Riccardo, che ora è bellissimo. Ha 17 anni, Riccardo. Ha quasi 18 anni. Quasi 18. E lo so che a una signora non si chiede l'età, ma insomma devo fare i miei calcoli, lei può capire. Lei ne ha 80, no? 80, sì. Ed è madre di un ragazzo di 18 anni. E signora sì, Rosanna, sì, ci dica la sua su questo dibattito, no? Il suo punto di vista. Senta, a me, io l'ho fatto perché mi era morto un figlio, è passato un assassino e l'ha ammazzato, quello è solo un assassino, prego Dio che gli facesse la peggio male che esistono al mondo, e io lo auguro tanto, guarda, perché ha visto due ragazzi invece di fermarsi e l'ha prese sotto. È una cosa fuori. Ma da questa vicenda drammatica le è nato il desiderio. Sì. Che ne pensa però delle polemiche che ci sono sulle cosiddette mamme nonne? Non so se tanto è offensivo questo termine. Senta, io sono mamma, nonna non sono. Perché magari ero nonna e sarei stata contenta di essere nonna, però sono mamma e sono felice lo stesso, perché io sono ancora una donna abbastanza forte, non mi mette paura niente. Io faccio tutto, allevo mio figlio e veramente non vede la differenza tra me e una dei 30 anni, non ci vede, perché io non glielo faccio vedere, perché io faccio tutto. Però in questo lei mi perdoni, lei, io so che è una persona con molto vigore, una persona fortunata, perché non tutti a 80 anni arrivano col suo vigore, con la sua forza. Io vado pure in campagna, gli faccio, cioè, vabbè, vado a vendemmiare, c'è da fare le cose, io lo faccio. E penso che chi è che ha fatto un figlio sia abbastanza forte, perché se no non l'avrebbe fatto, non ci sarebbe riuscita a farlo. Dunque, quella donna che l'ha fatto, perché gliel'hanno tolto? Ma che cosa brutta hanno fatto? Cosa più brutta che esista al mondo, alleva un figlio a una madre. Della vicenda di Torino, ma invece l'idea che una donna, perché le accuse sono, per esempio, che sia un desiderio che a un certo punto diventa un desiderio distorto passata a una certa età, al di là del suo dramma personale nel quale voglio entrare, ma non so, una donna che a 50, 55, 57 anni cerca un figlio, non è un desiderio esagerato a un certo punto? Ma allora perché non glielo danno in adozione? Perché tanto non te lo dà nessuno. Lo potevano dare in adozione, quella donna non l'avrebbe cercato se loro gliel'avrebbero dato. A me se me l'avrebbero dato io non l'avrei cercato, e hanno fatto bene, perché me lo so fatto del mio e non me lo tocca nessuno. su questo non c'è dubbio. Intanto, signora, mi faccia salutare la professoressa Assuntina Morresi, che fa parte del Comitato di Bioetica. Buongiorno, professoressa Morresi. Buongiorno. Senta, al di là del caso personale, ecco, Rosanna della Corte è la persona, la signora che è citata un po' da tutti i giornali, detiene questo record, no? Nel 93 ha 63 anni, è la donna che più avanti con l'età ha partorito. Che considerazioni si possono fare, professoressa Morresi, per esempio del fatto che le regioni vogliano imporre ora un limite alla fecondazione assistita, 43 anni, non è una norma da stato etico come qualcuno dice? Ma guardi, innanzitutto credo che, anzi sono certa del fatto che questa norma si riferisce ai trattamenti rimborsati dallo Stato, cioè se lo Stato deve rimborsare, lo Stato quindi in questo caso le regioni, perché è loro la responsabilità, non è del Parlamento. Se le regioni devono rimborsare un trattamento sanitario, visto che i fondi non sono illimitati, preferiscono rimborsare un trattamento sanitario a donne che hanno una certa ragionevolezza, cioè una probabilità ragionevole di avere successo, poiché dopo i 40 anni, come si vede da tutte le tabelle che possiamo consultare ovunque, le probabilità di avere un figlio in braccio, il cosiddetto bimbo in braccio, con la fecondazione assistita sono scarsissime, sono proprio dell'ordine di qualche punto percentuale, allora si decide di non investire i fondi pubblici, quindi chi vuole se lo paga. Quindi è una questione media, banalmente, di dire vuoi dei fondi pubblici, allora noi non li investiamo se non c'è una probabilità statistica che abbia successo. Beh, sì, questa tecnica. Perché tra l'altro c'è una, dopo i 42 anni, se non erro, 40 anni comunque sì, sicuramente, ma ci sono molte probabilità basse di rimanere incinta e ci sono tantissimi aborti spontanei dovuti al fatto che appunto per l'età, infatti se non è che il laboratorio sopperisce a quello che la natura non fa. Sì. Senta, le chiedo, professoressa Morresi, secondo lei c'è una forma di egoismo in queste ricerche a tutti i costi di un figlio anche d'età avanzata? Poi lo chiederò ovviamente anche alla signora della Corte. Ma guardi, io le dico questo, io credo che il figlio, avere un figlio non sia un diritto, anche quando ci sono degli eventi dolorosi, e ripeto, io non entro nel merito della vicenda che ha interessato la signora, faccio però notare che appunto per la legge dell'adozione, cioè un conto è trovarsi in una situazione in cui persone non più giovani o nonni, zii, vicini di casa, si prendono cura di un figlio che ha avuto dei problemi con i propri genitori e quindi sicuramente danno l'amore, danno l'affetto, sono in grado di dare tutto. Un conto è pianificare una situazione in cui ci possono essere delle difficoltà. Noi sappiamo che per esempio per le adozioni ci sono delle differenze di età che non si possono superare, mi sembra che c'è una differenza minima fra adottando e genitori di 18 anni e una differenza massima di 45, e non perché i legislatori sono impazziti, ma perché ci sono dei dati oggettivi per cui la norma è che uno abbia un figlio al massimo con quelle differenze di età. Sentiamolo sulla signora Rosanna, lo chiedo anche a lei, è una forma di un po', se vuole, di egoismo anche il suo, cioè il voler dire voglio a tutti i costi un figlio? No, non è egoismo, è amore, non è egoismo. Io lo volevo per amarlo, volevo un bambino, ho girato tutte le orfanotrofie, uno, due, per amarlo e amarmi lui a me, e amar lui tanto. E veramente io ho trovato, quando una famiglia c'ha l'educazione dentro casa, non c'è l'egoismo, c'è l'amore e basta. Io la vedo così, che a casa mia è questo. Mia nonna l'ha fatta 18, l'ha fatta per fino a 53 anni, normalissimo. E mia madre lo stesso, ha fatto 6 figli e siamo state tutte attaccate uno con l'altro, perché c'era l'amore nella famiglia e quando c'è l'amore c'è tutto. Allora, eccoci qua, siamo con la signora Rosanna Della Corte, come detto, ha 63 anni e nel 93 fece un figlio, Riccardo, che ha quasi 18 anni, la professoressa Assuntina Morresi, a parlare di questi casi che fanno discutere, di mamme in un'età sicuramente avanzata rispetto all'idea che generalmente si ha di una mamma. Vorrei sentire qualche ascoltatrice, sono contento, ci chiama qualche donna. Lia da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Lei che ne pensa? Ma dunque, io sono totalmente contraria, proprio totalmente. Contraria a che cosa? All'idea di avere un figlio, diciamo, sì, tardi? Sì, diciamo mamme e nonne. Sì. Ecco. Allora, rispetto alla signora Rosanna, complimenti, anzi, per essere così in gamba e riuscire a seguire un ragazzo giovane, adolescenza, con la vita che c'è oggi, velocissima, con la tecnologia però, che avanza. Pronto? Sì, però, c'è un però. Allora, intanto per me non è un atto di amore, nel senso che l'atto di amore io lo vedo verso un figlio adottato, verso un figlio che tu prendi e che tieni con te, e quindi questo è un atto d'amore. Nel momento in cui tu fai un figlio, comunque, in generale, anche da giovani, è un atto che si fa sostanzialmente per rispondere a un proprio bisogno, un bisogno proprio. Beh, in questo caso la signora Rosanna ha detto non me l'avrebbero dato in adozione, l'avrei preso, insomma, fatto. Certamente. Comunque, ovviamente la signora ha avuto un gravissimo lutto, quindi ha compensato, diciamo, ha cercato di compensare con una nuova gravidanza. Io ritengo che sia molto pericolosa la cosa, perché appunto la signora è molto in gamba, ma non tutti sono così. Cioè, la vita, per carità, è aumentata, cioè si vive più a lungo, ma non è che si viva tutti bene. No, e quindi dice il problema lei lo pone. Lia, la ringrazio, voglio andare a Roma da Sonia, buongiorno. Sì, buongiorno. C'è allora, un eco fastidioso, deve spegnere la radio però, Sonia. Ah, ok, dica. Eccomi qua. Ecco, dicevo, io ho 30 anni e ho appena avuto un bambino a 7 mesi e niente, volevo dire appunto di essere contraria, in quanto, cioè, io lo vedo con mio figlio e mio figlio necessita di tutte le attenzioni possibili, immaginabili, e comunque vuole che io giochi con lui, mi chini, stia per terra e lo prendo e la notte si sveglia meno male, Sonia, un bambino normalissimo. Ma assolutamente, ma infatti non mi lamento di questo, però mi chiedo appunto una persona, cioè se faccio fatica, io che ho 30 anni, una persona di 55-60 sì. anni, insomma, e fa una questione fisica, cioè dice proprio una questione di, no? Sì, chissà e quale. Poi, sì, esatto, ma non solo la questione fisica, ma anche quanto appunto un bambino appena nato, sì, non sa distinguere se la mamma ha 30, 40, 60 anni, quello no, l'importante è che gli venga dato appunto il latte, le venga dato amore, questo sicuramente, però quando appunto si ritrova adolescente e ha davanti a sé una figura che assomiglia, perché è così, a una nonna e non una mamma, questo magari crea problemi, diciamo, perché si ritroverà i suoi compagni con le mamme giovani, poi per esempio questo, Sonia, è un tema interessante. Vorrei prima se si vuol dire, se mi si passa questo termine, la teoria su questo, cioè dello sviluppo, la crescita di un ragazzo che si trova un genitore, diciamo, molto adulto. Poi magari lo chiediamo con esperienza pratica alla signora Rosanna. Però professoressa Morresi, è anche questo un problema da porsi, cioè l'idea che poi un figlio adolescente si ritrova, quando va bene, insomma, quando la vita poi si allunga dei genitori, comunque un genitore molto molto avanti negli anni? Ma sicuramente, ripeto, da questo punto di vista, avere dei genitori che esulano da tutto ciò che è la norma dei propri amici, dei propri, sicuramente non facilita. Qui io vorrei sgombrare però il campo da un equivoco rispetto anche a quello che ha detto prima la signora. Qui non si tratta di misurare l'amore, perché nessuno di noi vuole misurare l'amore altrui verso i propri figli. Qui si tratta di dire se è lecito che dei medici non facciano un passo indietro quando si forzano fortemente dei limiti biologici, innanzitutto, e quando non si pensa innanzitutto al massimo interesse del figlio, il che non significa che nel singolo caso possa venir fuori una situazione magari ottimale come quella della signora, ma qui stiamo parlando proprio di prassi, tra l'altro queste gravidanze a età avanzata, adesso non so nel caso della signora, ma immagino sia stato così, avvengono per compravendita di ovociti, perché si comprano gli ovociti delle donne più giovani. Che in Italia oggi è vietato, insomma, certo, si fa, e quindi però si va, c'è anche tutto questo aspetto di mercato che non dobbiamo dimenticare. Quindi io non vorrei entrare nel merito dell'amore personale delle mamme che a qualsiasi età fanno i figli, perché specularmente potremmo fare lo stesso discorso per le mamme bambine, una mamma di 13 anni, no? Sì. Quanto può essere adatta? Sentiamolo, però... signora Rosanna, lei si è posto questo problema, cioè suo figlio ha dei compagni, immagino, di scuola che hanno delle mamme che hanno sicuramente, diciamo, fisicamente sono più giovani di lei. E certo, mi chiedono consigli a me, le mamme di queste ragazze, mi dicono: come fai? Che gli hai detto? Come hai fatto? Sei andata da... perché io vado al calcio, lui va al calcio, io vado al calcio, io vado a scuola, io vado da tutte le parti, e Riccardo non ha visto una mamma vecchia, assolutamente, perché io non gli ho dimostrato il fatto di essere vecchia, di sentirmi male, di sentirmi... no, io ho cercato sempre di essere al punto delle mamme giovani. E lui no. Lui non ha, io non ho visto mai che Riccardo mi ha detto: mamma, sei vecchia. Mai ha avuto sto problema qui, perché io fisicamente sto benissimo e io non mi ci sento vecchia. Non ci sento. Dico proprio sinceramente. Io vo con le mamme delle amici di Riccardo che mi adorano, sarà che a me al paese mi adora tutto il paese e nessuno è contro di me. E sono state tutte felici e contente perché vedevano una mamma disperata, vedevano me che non vivevo più. Allora, quando hanno saputo che non me l'ha dato nessuno, che ho girato tutte le orfanotrofie, mi fa ridere quella donna che dice: un atto d'amore, ma chi te lo dà questo atto d'amore? Chi? Che non te lo dà nessuno, perché quando c'è una certa età ti dicono che sei vecchia e non puoi adottare nessun bambino. Allora, già che io ce l'ho fatta da me... certo, una donna quando si mette in testa di fare un figlio ha da essere sicura. Certo, all'avanti, questo sì. Si sicura che si è sana. Questo vale però a qualsiasi età, se mi permette. Io intanto la ringrazio, signora Rosanna. Come detto, la sua testimonianza è preziosa, la poi sarà a disposizione anche sul sito internet, no? E sul nostro sito Facebook 24 Mattino. Ringrazio la signora Rosanna Della Corte, così come la professoressa Assuntina Morresi, per essere stata con noi in questo tema popolare che ha suscitato, vedo anche tra i nostri ascoltatori, un grande dibattito. Allora, con Alessandro Longoni e Elisabetta Fosconi in redazione, l'appuntamento è rinnovato a domani. Saluto anche Peter Bescapè in regia, e domani a che ora ci troviamo? Sempre quella, 7:20, qui su Radio 24.